Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono nostalgica? Forse. Se si può essere nostalgici di cose per bene, io lo sono. Ho nostalgia di atteggiamenti esemplari, di parole semplici e chiare, di gesti garbati. Ciao, sono Teresa, vivo a Cava dei Tirreni, ho 56 anni e faccio la commessa anche se nella mia stessa attività. Da tanto che sono nel mondo dell'abbigliamento e ci sto bene, tutto sommato ci sto ancora bene nonostante la crisi. Avete presente il vecchio adagio che dice il cliente ha sempre ragione? Ecco, oggi cerchiamo di sollevare una piccola rivoluzione di tutti i venditori. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:07, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui e il numero di telefono per contattarci e parlare in diretta è 800 24 0024 oppure gli sms 349 238 6666. La puntata di oggi è dedicata proprio a tutti quelli che hanno a che fare con la vendita. Se siete agenti di commercio e siete in automobile, state andando da un cliente ad un altro per proporre qualcosa e vi è capitato di recente che il cliente non avesse ragione e gliel'avete cantata, gliel'avete detto, gliel'avete fatto presente. 800 24 0024. Se siete dei venditori in genere, c'è differenza tra l'agente di commercio e il venditore? 349 238 6666 se lo sapete. Se siete quindi dei venditori e proponete il vostro prodotto, il vostro servizio e avete a che fare con diverse persone, con diversi clienti in particolar modo, anche se siete come si chiamano le persone che dei call center, non quelli che rispondono ma quelli che chiamano per proporre dei prodotti, che quindi lì è facile perché non lo vedi in faccia la persona che ti chiama, quindi puoi mettere giù il telefono facilmente, puoi mandare a quel paese. Ecco, il cliente non ha sempre ragione. 800 24 0024, quando quella volta con quello proprio non ce l'avete fatta a mantenere la plomb. Se siete dei commessi in particolar modo, perché la storia di Teresa parte da lì. Teresa è commessa ed è proprietaria di un negozio a Cava dei Tirreni vicino a Salerno e la sua storia racconta di quello, racconta di quanto diciamo l'arte di fare la commessa abbia a che fare con la pazienza, con la buona educazione, ma ogni tanto quella buona educazione è a tanto così dal saltare. Quindi se siete dei commessi e avete voglia di partecipare a questa piccola rivoluzione, il cliente non ha sempre ragione perché vi è capitata quella cosa quella volta, 800 24 0024 per chiamare in diretta oppure 349 238 6666. Vi faccio alcuni esempi delle storie che sono arrivate sul profilo Facebook del programma, sono tutte lunghe, quindi Marco: quando lavoravo da cameriere, beh certo anche i camerieri valgono, quando lavoravo da cameriere capitava spesso di avere clienti un po' troppo agitati. Quando alzavano la voce ci si adoperava per fargli rimettere la coda tra le gambe, ovviamente senza essere maleducati o mancando di professionalità. La volta che è andata meglio, un cliente voleva fumare in una sala dove non era consentito. Mi ha mandato a chiamare il titolare, che davanti alla minaccia del cliente di andarsene con la sua tavolata, cioè di andarsene con tutti quella tavolata, ha risposto: se decidi di andarsene mi fa un favore perché ho un sacco di gente che aspetta di sedersi. Lui si è rimesso a posto. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. La storia di Teresa, che appunto non racconta un episodio in particolare in cui qualcuno le ha mancato di rispetto e lei ha bypassato la regola del cliente sempre in ragione, però è interessante perché tutti noi quotidianamente abbiamo a che fare con persone che sono dietro a un bancone o che sono in un negozio, che in qualche modo ti danno un servizio tutti i giorni, ma più volte al giorno tra l'altro, appunto anche telefonicamente quando qualcuno ti propone di vendere qualcosa, no? Comunque tu sei un cliente molto più spesso di quanto pensi, tutti noi lo siamo, e quindi avere un punto di vista così interno, un insider nel mondo di chi vende, che ti fa vedere come sei tu quando entri in quei posti o quando hai a che fare con qualcuno che vende, è un punto di vista molto interessante. Quindi abbiamo preso il racconto di Teresa proprio per questo motivo, per creare, per cercare di raccontare questa piccola rivoluzione silenziosa di tutti quelli che hanno a che fare con dei clienti che per una volta vanno oltre la regola del il cliente non ha sempre ragione. 800 24 0024. Ognuno ha il suo stile, e non solo nel vestire, anche nel parlare, nel gesticolare, nel viaggiare, nel guidare, nel chiedere. E c'è stata un'epoca, un passato, un tempo in cui le persone parevano abituate alle buone maniere. Sapevano quasi per istinto che nella vita di relazione il protocollo vuole una certa educazione. Insomma, imparavano il cosiddetto rispetto per gli altri. Io penso proprio che sì, sì, l'educazione è legata più al tipo di famiglia in cui sei nato e anche un po' all'epoca, perché prima secondo me si era impegnati a dare la buona educazione, adesso no, anzi forse era un po' troppo prima, adesso invece assolutamente no, io vedo che i ragazzi sono lasciati un po' a se stessi su questo punto di vista. Se penso all'inchino di un uomo quando salutava una donna sollevando il cappello, o lasciare il passo a una persona più anziana, cedere il posto sul tram, alla posta, il baciamano, parlare a voce bassa e chiedere con cortesia, mi viene in mente una sorta di piacere nel rispettare le regole che rendeva forti, sicuri. Sono infiniti gli esempi, ma tutto è cambiato. Sono nostalgica? Forse, se si può essere nostalgici di cose per bene. Ecco, io lo sono. Ho nostalgia di atteggiamenti esemplari, di parole semplici e chiare, di gesti garbati. Io vivo ogni giorno a contatto con il pubblico. Il mio lavoro di commessa, anche se nella mia stessa attività, mi porta a relazionarmi con persone diverse ogni volta. È un piacere ricevere persone nel proprio negozio. È un dovere accogliere tutti. È mio compito, ogni volta, soddisfare una richiesta. Faccio questo perché ho scelto di seguire mio marito nel suo lavoro. Mi sento gratificata di poter rendere felice qualcuno e addirittura mi pare di essere migliore con me stessa se sono educata con gli altri. So che le buone maniere sono fatte anche di piccoli sacrifici e in un negozio si impara molto della natura umana. Le persone cortesi e sincere, quelle che magari apprezzano qualcosa ma non possono permettersi di pagarlo, ad esempio, o semplicemente cambiano idea una volta indossato un abito e lo fanno capire con garbo. O certe altre che invece appaiono per bene ma non lo sono, con la mania di dire piccole, patetiche bugie, la pretesa di volere tanto e pagare poco, l'arroganza nel credere che tutto sia loro dovuto. Sei la commessa e mi devi servire, questo è il tono impaziente di alcune rare signore. Io non sono sciocca da non sapermi arrabbiare, ma sono abbastanza saggia da non volerlo fare. Tutti i mestieri credo abbiano una sorta di decalogo che indica quali sono le regole da seguire per farlo al meglio e per non sentirsi un automa alla sera quando ritorni a casa. Certamente del mio lavoro amo molto il contatto con la gente, questo mi piace molto, nonostante incontro persone difficili spesso, però mi piace ed è una sfida, anzi è una sfida proprio. Qua più sono difficili le persone, più io mi impegno a mostrare invece il mio lato, il mio modo di fare, ecco. La pazienza è una grande qualità, è un grande valore, di cui mi armo ogni volta che servo un cliente. Però ora pare che la crisi abbia invaso tutti i nostri pensieri, comportamenti, abitudini. Mi pare che renda suscettibili e impazienti. Certe giornate sono davvero difficili. E io cerco di non inciampare, e non soltanto per colpa dei tacchi. Lo ammetto, ogni volta che io sento dire quanto era meglio prima rispetto ad oggi, un po' mi viene il nervoso. La storia di Teresa mi piace perché è il punto di vista di una persona che fa un mestiere comune ma difficile. Un mestiere di fronte al quale mi trovo tutti i giorni, più volte al giorno, al bar, all'edicola, in un negozio qualsiasi. Difficilmente però penso a quanto sia difficile stare magari in piedi tutto il giorno in un negozio e vedere gente che entra ed esce, a volte cortese e a volte manco saluta. Però non penso che la buona educazione sia legata ad un'epoca che ormai è andata e che non tornerà più. Penso che l'educazione sia sempre legata alla famiglia da cui arrivi, da quello che ti insegnano tua mamma, tuo papà, dal modo in cui lo fanno. Penso che l'educazione passi attraverso la scuola e che quindi dipenda direttamente dal paese in cui vivi, perché quella scuola, quel paese la gestisce, la crea, la finanzia. In tutte le epoche si è spesso sentito dire questi sono tempi bui. Sempre, da quando ho letto i primi libri di storia, ci ho sempre trovato riferimenti a epoche orribili, raccontate da chi ci viveva, che sperava sempre in un tempo migliore in futuro. Ed è vero che questi sono anni difficili, ma non credo che in passato sia stato tanto meglio o tanto peggio. Credo semplicemente che ognuno di noi si aggiusta un po' come può, come riesce, in base a quello che gli capita tra le mani. Sono convinto per questo motivo che la buona educazione non abbia a che fare con il passato, ma con la qualità del vivere insieme delle persone. Con la trasmissione di modi e contenuti più che con i grembiulini a scuola o le bacchettate sulle dita. Quello di cui parla la storia di Teresa non è solo della buona o cattiva educazione delle persone che frequentano il suo negozio. Parla delle regole che ogni mestiere ha e che per il venditore di un negozio, ma non solo, si possono facilmente riassumere nella famosissima regola de «il cliente ha sempre ragione». E forse non lo so, sono folle io, ma mi piace pensare che nella storia di Teresa ci sia in realtà una piccola forma di ribellione. Nonostante lei racconti di essere sempre gentile, mi diverte pensare che ci sia una forma di protesta silenziosa nella sua storia. Una protesta quasi rivoluzionaria nel campo del commercio e magari anche della buona educazione. E la protesta riguarda proprio il fatto che non è vero che il cliente ha sempre ragione. Il cliente prima di tutto è una persona che ha a che fare con un'altra persona, che solo in seconda battuta è anche il commesso di un negozio. E anche se uno deve vendere e l'altro deve comprare, le regole di comportamento che entrano in gioco non sono solo quelle del buon venditore, ma a sto punto anche quelle del buon cliente e più in generale del buon vivere insieme. E mi piace immaginare una enorme, planetaria rivoluzione dei commessi, di tutto il mondo, che riempiono le piazze del pianeta e dietro di loro tutte le categorie che hanno dovuto sottostare a regole scritte da qualche educatore professionale, dimenticando le regole tacite del vivere tra le persone, in nome di un lavoro, di una fattura, di una ricevuta in più. E questa grande rivoluzione magari porta al mondo, non lo so, all'autodistruzione economica, però almeno c'è una prospettiva diversa. E anche se non sono un fricchettone e non indosso abiti a fiori, questa immaginaria rivoluzione dei commessi spero avvenga senza che per forza scendano in piazza. E per questo motivo, da quando entrerò in un negozio la prossima volta, penserò di avere davanti una persona che non mi sta solo vendendo un cappuccino o un paio di ciabatte, ma qualcuno che crede in un ideale nuovo e rivoluzionario, quello della buona educazione reciproca. Cliente voleva entrare in sala da pranzo in hotel in canottiera ed era vietato. L'ho invitato a mettersi una t-shirt e mi ha detto dammi la tua. Gli ho dato 10 euro e l'ho mandato a comprarsene una. Ha fatto la valigia e se n'è andato. Bene, ero il titolare e quindi ho potuto farlo. 349-238-6666, ma anche al telefono 800-24-0024. Si parla di tutte le volte in cui, se fate il mestiere del venditore, qualunque esso sia, dietro un bar, dietro al bancone di un negozio, dietro un telefono o anche in automobile, cercando di raccontare ai vostri clienti qual è il prodotto che gli volete vendere, ecco, quella volta in cui il cliente non aveva ragione. Tutto perché da Cava dei Tirreni, Teresa ci ha raccontato la sua storia. Pronto, Teresa? Ciao, Matteo. Come stai? Bene. Sei in negozio in questo momento, Teresa? In questo momento c'è pausa perché noi riapriamo alle 16.30, quindi tra un minutino, però io abito vicino, quindi mi sono trattenuta a casa ancora un attimo. Ah, quindi sei a casa ancora in questo momento? A casa, sì, perché il negozio è proprio vicino a casa. Che cosa vendiamo esattamente, Teresa? Ma noi abbiamo abbigliamento in genere, non firme, non le solite firme, ecco, siamo un po' distanti dall'omologazione, diciamo. Quindi, ecco. Abbigliamento uomo-donna. Ma avete una linea vostra? Anche, bravo, sì. Abbiamo un marchio, Hunter, e produciamo dei capi classici sia da uomo che da donna, pantaloni, camicie. Ma scusami, avete uno stilista quindi che vi disegna? O fai tutto tu, tuo marito? Bravo.

quella gradazione felice che ha nella voce si vede anche dall'espressione del suo viso e dagli abiti, che sono sicuramente della loro boutique, della loro linea d'abbigliamento. È tutta in nero e bianco, una giacca corta che sicuramente qualcuno saprebbe definire meglio di me, non è una giacca, un top, vabbè, tant'è, un foulard nero a pois bianchi, un cappello in testa e l'aria che è esattamente la stessa della voce che avete sentito. Cliente. Sostantivo maschile e femminile. Chi abitualmente si vale delle prestazioni di qualcuno o acquista quanto gli occorre dallo stesso fornitore. Avventore. Nell'antica Roma, il cittadino che accettava la protezione di una persona autorevole o influente in cambio di generici servigi, specialmente nell'ambito della vita civile e politica. Figurativo, spregiativo. Persona che si mette a disposizione di un autorevole personaggio, specialmente politico, per ottenerne favori e protezione. Etimo, dal latino cliens clientis, data prima del 1540. Mi sono morsicata la lingua. Fantastico. Teresa è un mito, qualcuno scrive, falle fare una rubrica. Così, pronti, su che cosa potremmo farle fare una rubrica, Carlo Maria da Roma? E poi ancora, ciao, mi chiamo Saul, ho 38 anni da Brescia, macellaio da più di 20. Il mio motto è il cliente ha sempre ragione fino a quando è fuori dal negozio. Invece sul profilo Twitter del programma, che è Voi siete qui R24, o Voi siete qui lo trovate, Massimiliano scrive, il cliente ha ragione dopo aver pagato, fino ad allora è uno scroccone che si lamenta. 349-238-6666, abbiamo chiesto a qualcuno che appunto lo fa, come i messaggi che sono arrivati, di raccontarci qualche episodio, e vorrei sentire Elena dalla provincia di Alessandria, che ha una teoria che mi incuriosisce. Il sabato i clienti sono molto più maleducati. Pronto Elena? Pronto, sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao, abbastanza bene, grazie. Dove ti trovi Elena? In un frigorifero dalla voce? Più o meno qui, la mostrina del supermercato, in cui ci lavoro. Ma sono la cliente adesso. Cioè sei dentro al supermercato ma adesso stai comprando. Adesso io sono la cliente. Ma sì. Scusami, dove ci ascoltavi? In cuffia? No, ero in macchina. Ah, arrivata, ok. Ad Alessandria, mi sono venuta a fare la spesa. Perfetto. Però volevo dirvi, il cliente non ha mai ragione ed è sempre abbastanza maleducato. Nel senso che c'è, non so come dire, c'è questo senso di onnipotenza. Io ti pago. E quindi il senso di onnipotenza arriva dal denaro, Elena, non dal fatto di essere un cliente. Sì, ma è questa teoria per cui il sabato sono più maleducati? Perché sono a casa, non hanno voglia, però devono farlo e allora si sfogano. Ma tu è la sociologia del supermercato. Scusami, tu che cosa fai esattamente? Fai la cassiera? Io faccio sia la cassiera che approvvigionamento. Cioè, sono da tutte e due le parti, li sento agli scaffali e poi li risento in cassa. Agli scaffali quando chiedono informazioni, però. Certo, sì. Ma è vero che in alcuni... Aspetta, in una lingua semi-incomprensibile, Vabbè, ma sono dei mostri, Elena. Una volta ho sentito parlare un assistente di volo dei passeggeri degli aerei, sembravano delle bestie proprio. Che... Mamma mia. Anche nei supermercati. Io infatti ogni tanto... Dico sempre, volete provare 5 minuti seduti qua dietro? A loro lo dici? A loro? Sì, no, alle mie colleghe, ovvio. Ah, ok. Senti, ma è vero che in alcuni supermercati andare in cassa è una punizione? Sì, perché c'è la coda. Due carrelli e coda. No, via. Dico andare in cassa, cioè finire a lavorare dietro la cassa è come dire, una sorta di punizione. No, allora, è una boiata che si dice. Che hai. Io mi diverto perché sono una che si arrabbia facilmente, però poi la butto sul ridere, okay. Perché è impossibile arrivare col fegato marcio a casa la sera. Adesso, quello lo immagino, ma adesso sei lì perché stai comprando e poi attacchi a lavorare o sei andata proprio... No, adesso sono in serie, va bene. Sono dovuta venire a va bene. Elena, ti ringrazio moltissimo. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a provincia di Milano da Giorgio. Pronto, Giorgio? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Posto. Anche tu hai una teoria che non è male, perché tu ricarichi, cioè ricaricavi. No, ricaricavo, sì. Ero come, diciamo, come chiamano i clienti in maniera un po' superficiale, l'omino del caffè. L'omino del caffè? L'omino Ma del perché caffè. Sempre un omino, tra l'altro? Perché si credono che superiori a uno che fa, che lavora come loro e magari prende anche più di loro, perché essere trattati male, perché... verso questa categoria di lavoratori che sono i caricatori delle macchinette del caffè sono quelli che si prendono gli insulti. Ma non funziona niente, mi mangia le monetine. A parte quello, poi noi arriviamo, noi siamo in pausa, tu proprio adesso devi arrivare, potevi arrivare prima, potevi arrivare dopo. Ho capito, capito, capito. Senti, la tua teoria è che rispondendo male ai clienti hai ottenuto più rispetto. Sì, io allora io sono uno che porta rispetto a tutti, ma esigo anche rispetto. E non sono uno che è capace di star zitto. Quindi non vado dal cliente e digli sei un deficiente. Anche ok, ok, chiaro, chiaro. Volte, però glielo faccio capire. Cosa fai adesso, Giorgio? Adesso sono un venditore, sempre nello stesso ambito. Sei sempre lì, sei sempre lì. E anche qua uso questa teoria. Io funziona. Sono il classico, sì, non sono il classico lecchino. Bravo. Giorgio, ho pochissimo tempo e ho altre telefonate. Ti ringrazio e ti saluto. Prego, ciao. Ciao, buona giornata. Andiamo a Roma da Carlo. Pronto, Carlo? Eccomi, buongiorno a voi. Ciao, come stai? Benissimo, sono al lavoro, io mi occupo di soccorso stradale specificamente per le moto. Mi quindi capitato... vai in giro col camion giallo? Furgoncino, non il carro attrezzi normale, ma furgoncino che carica le moto. Ok, ok. Avevo un collaboratore col quale ci eravamo scambiati una promessa che qualsiasi cliente, anche il più danaroso, avesse offeso la nostra attività, l'avremmo sceso. Cioè l'avresti lasciato in mezzo alla strada? No, preso a bordo. Nel momento che, okay. Dopo averlo preso, il cliente comincia a dire siete troppo cari, e dovete fare così, e dovete avere un occhio di rispetto, oltretutto con una moto di un certo costo. Mm-hmm. Il Fabrizio, il mio autista, mi chiama e mi chiede un'autorizzazione a un codice 99. Il cliente ci guarda... Cos'è un codice 99? Codice 99, preso dai film americani. Il codice 99 è autorizzato da me, al buio, senza sapere cosa era successo. L'autista comunica al cliente che la sua presenza a bordo del nostro veicolo era terminata. Moto scesa, soldi restituiti, grazie, arrivederci. Ma scusami, quindi allora, tu hai lasciato in mezzo alla strada sto tizio, dimmi che moto aveva, dai. Una BMW. BMW di 20.000 euro. Perfetto. Questo è abbastanza comune nei messaggi che sono arrivati, che quelli più denarosi sono i più rompimaroni. Ma fammi capire però, voi siete un servizio di quelli assicurativi, cioè che di default oppure vanno... Non esiste per le moto il servizio assicurativo. Ah, ok. Esiste quindi... ma solo fatto con i carri attrezzi specifici. Ok, quindi semplicemente ti chiamano, devi tirare fuori i soldi e lasciate in mezzo alla strada. Dove sei adesso, Carlo? A Roma, sto per prendere una moto BMW anche questa volta. Va bene, in bocca al lupo Carlo, grazie, buona giornata. Ciao, grazie mille. 349-238-6666, ma anche voi siete qui, @radio24.it per continuare a mandare le vostre storie. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Teresa. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Enrico, sono di Reggio Emilia, la storia di domani è la mia e parla di come le apparenze ingannano. Questa è la mia storia e io sono qui.